Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene. Questo è Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e nella scorsa puntata vi ho parlato dell'utilizzo dei fiori di Bach per gli animali. In questa puntata invece vi vorrei parlare dell'utilizzo degli Australian Bush Flower Essences sempre per gli animali. Gli Australian Bush Flower Essences, distribuite in Italia dalla Green Remedies, hanno creato una linea proprio per gli animali, si chiamano Universe Pets. Sono delle boccettine di essenze combinate, già preparate, per l'aiuto degli animali e che vanno a cercare di risolvere i problemi principali. No, io non sono molto a favore delle miscele già preparate. Però diciamo che possono essere un valido aiuto se ci si trova in vacanza oppure se si deve partire e si vuole avere con noi un kit per aiutare i nostri animali ad andare in vacanza. Allora, il primo è l'aggressive. L'aggressive viene usato per gli animali in conflitto con se stessi e con gli altri, che manifestano atteggiamenti reattivi e di controllo. Favorisce la lucidità e il rapporto equilibrato in gruppo, permettendo quindi di esprimere e ricevere affetto e amore. Quindi le condizioni negative sono tendenze aggressive, rabbia, gelosia, eccessiva territorialità. Sicurezza, espressione dell'amore e interazione pacifica con l'ambiente circostante. Quando vi può essere utile? Se il vostro cane ha una tendenza aggressiva e dovete lasciarlo in pensione per le vacanze, oppure se il vostro cane ha una tendenza aggressiva e andate in un posto dove sapete che ci sono altri animali, questo può aiutarlo, diciamo, a passare meglio le vacanze. Agitation and calm. Agitation and calm è utile per gli animali stressati che manifestano iperattività e agitazione e possono avere comportamenti nervosi e ripetitivi. Favorisce la calma e il rilassamento e la tranquillità. Condizioni negative, quindi agitazione, iperattività e ripetizione ossessiva di un comportamento, rilassamento, stabilità e tranquillità. Quando vi può essere utile? Quando andate in vacanza, sapete che il vostro cane si agita in luoghi nuovi, e se in vacanza vedete che non riesce a tranquillizzarsi, non riesce a ambientarsi al nuovo posto e continua al posto di calmarsi a essere iperattivo. Detox pet. Questo magari vi è più utile in caso di cambio di alterazioni alimentari e stress pelo-opaco. Favorisce la sensazione di leggerezza e pulizia, che esprime anche un manto morbido e luminoso. Quindi, condizioni negative, pesantezza mentale e fisica, manto sciupato. Benefici, sollievo emotivo e fisico, sensazione di leggerezza e pulizia. Usatelo quindi nel caso di pulci o zecche e vedete che il cane si mordicchia e si sciupa il manto, oppure visto che in vacanza ci si concede spesso tutti degli extra, se vedete che il vostro cane al cambiamento alimentare reagisce o grattandosi o mordicchiandosi o manduccandosi o perdendo la lucidità del suo pelo. Diffidence and timidity. È utile per gli animali timidi e diffidenti, in costante stato difensivo, che li porta a rimanere in disparte e non accettare il contatto fisico. Aiuta a crescere la fiducia e la tranquillità e a interagire con sicurezza con coloro che li circondano. Quindi, condizioni negative, timidezza, tendenza a nascondersi, diffidenza, paura, esperienze negative. Fiducia, sicurezza, padronanza del proprio territorio e socializzazione sono i benefici. Da usare quindi nel caso abbiate degli animali molto timidi e poco socievoli, e se vi trovate in una situazione in cui il cane o il gatto deve condividere la casa e le vacanze con altre persone e vedete che al posto di arrabbiarsi, come era nel caso dell'aggressive, sta chiuso in disparte e se ne sta da solo. Emergency pet è la versione degli australiani del rescue. Io la trovo molto utile e forse molto più forte del rescue remedy. Quindi questo lo consiglio sempre a priori di avere sempre una boccettina con sé. Inoltre esiste anche una versione spray, non da bocca ma da ambiente, che è utile magari da spruzzare nella gabbietta se deve fare un viaggio in aereo o in nave, o se avete un trasportino in macchina, date da spruzzarlo. Se questo vedete se che il viaggio in nave lo preoccupa abbastanza, riesce a tranquillizzarlo. E comunque sia, è sempre utile se succede qualcosa. Quindi è utile in caso di emozioni molto intense, caratterizzate da grande agitazione, spesso dovuto a traumi o paure intense. Quindi anche se il cane ha paura del temporale, vi può essere utile. Aiutare a ritrovare la tranquillità, calma, serenità necessari per superare i momenti più intensi e delicati. Se sta cosa vale per i fuochi d'artificio, quindi se vi trovate in un paese dove sapete che ci sarà la festa del patrono e sparano i fuochi d'artificio, usate l'emergency pet. Quindi condizioni negative, emozioni intense, paura ed esperienze negative, benefici, tranquillità, serenità e controllo. Instinct balance è utile per gli animali con disequilibrio emotivo dovuto a particolari situazioni ormonali come pianificazione della riproduzione, desiderio di maturità o accoppiamento. Aiuta a ritrovare calma, stabilità e a connettersi positivamente col proprio istinto naturale. Quindi emozioni negative, emotività, calma ed equilibrio emozionale dopo il parto. Benefici sono, quindi i benefici sono l'emotività, la calma e l'equilibrio emozionale dopo il parto e lo stress e le condizioni negative, lo stress e l'agitazione nel periodo riproduttivo e sbalzi emotivi. Quando vi è utile? Se avete un cane o maschio o un gatto maschio intero, molto ormonali, che quindi vanno a cerca delle canine o delle gattine in amore, e cosa vi aiuta invece nel caso di cagne intere o di gatte intere, se nel periodo delle vacanze si trovano a essere in calore e quindi a cercare di aiutarle a superare questo momento. Training and education è adatto a tutti gli animali che stanno seguendo addestramento con finalità educative o sportive, che possono avere difficoltà ad apprendere e memorizzare indicazioni e esercizi, nonché a mantenere attenzione. Favorisce la comunicazione con la guida, la coordinazione e l'attenzione. Quindi condizioni negative, distrazioni, difficoltà nell'apprendimento e la comunicazione. Benefici, memorizzazione, coordinazione e focalizzazione. Quindi la potete usare se nelle vostre vacanze c'è una vacanza agility col cane o una vacanza di obedience o uno stage di qualsiasi tipo, oppure se non lo usate per la vacanza, ricordate se fate attività sportive col vostro gatto o col vostro cane o fate un percorso di rieducativo, che questo vi può aiutare. Transition pets è utile per gli animali che non amano i cambiamenti, con comportamenti ripetitivi e schematici rigidi. Favorisce una serena apertura alle novità, aiuta l'animale anche a affrontare la fine della vita con tranquillità. Quindi condizioni negative, difficoltà a accettare i cambiamenti e comportamenti ripetitivi con energia stagnante. Apertura e tranquillità nei cambiamenti e avvicinamento sereno alla fine della vita. Quindi quando lo potete usare? Per i viaggi, quando il cane si dovrà abituare all'albergo, alla una casa, a qualsiasi posto dove voi andiate e sapete che il vostro cane difficilmente si adatta ai cambiamenti, oppure se avete un cane o un gatto anziano che in questo caso non riuscite a portare dietro perché è troppo anziano, potete aiutarlo sia per abituarlo a rimanere a casa con la dog sitter o con la pet sitter o in pensione e per aiutare a affrontare la fine della vita. Travel pets è utile in caso di difficoltà negli spostamenti su mezzo di trasporto con paura e agitazione. Aiuta l'animale ad accettare gli spostamenti anche in spazi ristretti ad affrontare il viaggio con serenità. Questo, anche di questo esiste lo spray, non per bocca ma per ambiente, che è utile da spruzzare nella gabbietta, nel trasportino, in qualsiasi posto il cane o il gatto siano per il viaggio. Quindi condizioni negative, paura del mezzo di trasporto, disagio e fastidi legati al viaggio, benefici, tranquillità, vitalità, serenità nell'affrontare gli spostamenti. E arriviamo all'ultimo, vigor and energy, quindi è utile per gli animali che non amano muoversi, che passano la maggior parte del tempo a sonnecchiare con l'avanzare dell'età o in situazioni di disagio. Aiuta a trovare l'energia, entusiasmo e interesse per la quotidianità. Condizioni negative, stanchezza, vecchiaia e pigrezia. Benefici, vitalità, energia, entusiasmo e vigore. Quando vi può essere utile? Nel caso in cui il cane o il gatto abbiano subito un'operazione e quindi si debbano riprendere, questo li aiuta a trovare energia. Quindi, che ne so, il cane si fa male o il gatto si fa male in vacanza e gli vengono messi i punti, viene sedato, questo l'aiuta al risveglio a riprendersi un pochino di tranquillità. Con oggi è tutto, e abbiamo fatto anche una piccola pillola di fiori australiani per viaggio degli animali. Nelle prossime puntate vi parlerò anche dei fiori degli animali australiani per le persone, ma prima di lasciarvi, come sempre, vi ricordo i nostri contatti. Il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono: Francesca 340 2345 340, Franco 329 89 89 669, Elisa 339 38 60 123. Abbiamo anche la nostra pagina Facebook Energicamente. E per oggi è tutto, vi auguro un buon weekend e buone vacanze, alla prossima puntata.